Buongiorno Andrea e benvenuto sui microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie per avermi come ospite. Molto bene, allora direi di partire un po' dalle origini della nascita di questo lungometraggio, di questo film Ascoltati. Che cosa racconti in questa storia? Allora, Ascoltati parte da un personaggio, un quarantenne, un personaggio depresso che purtroppo ha avuto la brutta notizia da parte di suo padre che sua mamma è morta. Lui chiaramente voleva molto bene a sua madre, però non ha mai avuto il coraggio di parlarle. Ora ha un grosso rimorso, lui vorrebbe tornare indietro, vorrebbe appunto riuscire a comunicare con lei per raccontargli, per dirgli tutto quello che non ha mai fatto quando era ancora in vita. E su consiglio di altri personaggi che incontra nel film, lui inizia ad ascoltare se stesso, ma inizia soprattutto a cercare di ascoltare sua madre tramite frequenze. Si costruisce un'auto, una piccola antenna in grado di captare segnali e così comincia la sua avventura tra le vie di Bologna, appunto cercando questa frequenza che sarebbe la frequenza di sua mamma. Certo, e proprio a proposito di Bologna, una protagonista importante è appunto anche lo scenario in cui giri il tuo film, quindi come dicevi tu la città di Bologna. Come la rappresenti e quanto è importante per te questa città? Bologna è la mia città natale, quindi è molto importante per me. Ci tenevo a fare un film girato a Bologna. È una città che comunque conosco e avevo già, all'inizio anche durante la scrittura, avevo già in mente le scene, sai, quando sei in giro per Bologna ti rimane impresso qualche via, qualche punto, e da lì ho voluto appunto fare riprese, ecco. Mi sentivo a casa, insomma. Certo, giustamente. E proprio tra le strade di Bologna il protagonista incontra anche un personaggio, come dire, a noi molto noto. Lo anticipavo già prima ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, sì. William Piana. Proprio William Piana. Esatto. William Piana è un passante, un qualsiasi passante bolognese, dove il personaggio appunto intento a captare le frequenze si scontra con appunto William Piana, che in poche parole lo manda a quel paese. ce lo vedo in questo personaggio, il nostro Willy, ce lo vedo. Sì, è stato molto bravo William, molto professionale come sempre, ha dato quel valore aggiunto, come dice lui, al filmato. E c'è anche la nostra radio all'interno delle riprese del tuo film? Sì, c'è una scenetta tra l'altro interpretata dal Rapsodico, adesso non penso abbia più programmi, no, c'era un programma Radio Città Fujiko di sera, e praticamente è stato ripreso appunto in un come che fosse durante una sua trasmissione, lancia un brano e consiglia anche via radio ad Andrea di ascoltare appunto se stesso. Il Rapsodico in questo film rappresenta un amico d'infanzia del personaggio, ora lui è uno psicologo e appunto dà consigli e aiuta molto il personaggio principale nella sua ricerca soprattutto di se stesso. Senti, ti volevo chiedere invece da che cosa nasce l'idea di questo film, perché l'idea base di un personaggio che gira per le strade di una città con un'antenna per cercare appunto la voce in qualche modo della madre scomparsa è un'idea alquanto particolare. Sì, guarda, l'idea alla fine l'avevo davanti agli occhi. Sai, quando si inizia a scrivere, ad abbozzare qualcosa, si cerca sempre di inventare storie incredibili, molti ci riescono, ma penso che quello che vivi tutti i giorni, che ti sta vicino, possa aiutarti a realizzare quello che davvero stai cercando. Lo trovo meno facile mentire a se stessi. Certo, assolutamente. Senti, invece ti volevo fare un'altra domanda che esula un po', diciamo, dal tuo film. Però tu sei un lavoratore del settore dello spettacolo, quindi ti volevo chiedere come stai vivendo questo periodo storico particolare, questo momento in cui la cultura sembra un po' messa, come dire, in seconda posizione, in secondo piano, messa un po' abbandonata. Cosa pensi? Beh, guarda, la cultura purtroppo è sempre stata messa in secondo piano, e adesso qui causa Covid è molto molto in secondo piano, però sin anche dai tempi, diciamo, senza questa grave sciagura che ci sta coinvolgendo tutti, la cultura avrebbe bisogno di essere più in primo piano. Io lo trovo veramente importante. E altro, come la sto vivendo, la cultura a me non dà da mangiare, quindi il mio stipendio lo porto a casa, questo alla fine per me è un hobby, non so che dirti, però mi dispiace molto che ci siano veramente persone che lavorano alla cultura che adesso sono a terra, sono proprio a terra, e non, tra l'altro non ne vedo una via d'uscita. Esatto, rimaniamo positivi, ecco, speriamo che prima o poi, magari con un po' di tempo, si possa trovare una via d'uscita, come dici tu. Il tuo lungometraggio Ascoltati è in questi giorni ancora presente all'interno del Ravenna Nightmare Film Festival. È possibile vederlo online? Hanno spostato le proiezioni online? Come funziona? Sì, praticamente sempre a causa Covid quest'anno l'edizione 2020 del Ravenna Nightmare è tutta online. Si sono appoggiati alla piattaforma di MyMovie, dove è possibile vedere tutti i film del festival. Bene. Ascoltati sarà in proiezione fino a sabato alle ore 16. Bene, dopodiché quindi lascerà posto ad altri film della rassegna. Bene, quindi per chi volesse dare un'occhiata può andare sul sito, penso, del Ravenna Nightmare Film Festival e troverà, insomma, le indicazioni. Perfetto, grazie mille Andrea per questa intervista, Rachele, per questo approfondimento e anche così per aver inserito la nostra radio all'interno delle tue riprese. Certo, grazie di cuore a voi.